Benvenuti su Monarchia Interiore, un podcast dove vengono discusse e preservate idee riguardanti la libertà. Io sono Francesco Sani, il mio sito è monarchiainteriore.com. Oggi è il 18 marzo 2026, questo è l'episodio 4 e sono qui in compagnia di Giulia Rodighiero. Ciao Giulia, bentornata. Ciao Francesco, grazie di avermi invitato di nuovo su questo podcast. Il mio sito è giuliarodi.com. Bene, l'altra volta nell'episodio 3 abbiamo letto un discorso tenuto da Mark Passio che credo fosse importante da condividere, anche se ha anticipato molte cose. Ma la volta precedente, nell'episodio 2, abbiamo parlato della propensione all'apprendimento, tra cui le posizioni peggiori e migliori per poter apprendere. E una delle posizioni peggiori è quella dell'ingenuità. E abbiamo anche accennato al movimento New Age e alle idee New Age come un ostacolo all'apprendimento. E infatti volevo dire che sì, l'ingenuità è molto correlata a, diciamo, all'idea New Age e soprattutto ai seguaci di quel tipo di idee e di pensiero, come anche a gran parte, devo dire, dei cosiddetti alternativi, diciamo, del mondo alternativo a quello del mainstream. C'è molta ingenuità e credulità, è qui che si creano tutte quelle idee considerate più folli da parte dei mainstream o dei ben pensanti, per così dire. Poi usano per metterci tutti nello stesso gruppo con i terrapiattisti e QAnon, eccetera, eccetera. Sì, potremmo fare mille esempi. Esatto, sì, nello stesso gruppo di, insomma, qualsiasi. Questo viene, insomma, è utile perché poi si possano marginalizzare le idee che non sono conformi a quelle alle versioni ufficiali e al pensiero che va per la maggiore, o il pensiero ufficiale. Quindi volevo ritornare un attimo su questo discorso che abbiamo cominciato ad affrontare nell'episodio 2, perché è importante capire anche. Questo poi lo vedremo anche in seguito nelle varie tattiche di manipolazione e tra i vari metodi di manipolazione, ma è anche importante quando si forma un movimento di dissenso oppure di teorie o idee considerate che vanno in teoria contro il sistema di schiavitù. Allora è importante poi per il sistema riuscire anche a infiltrarlo e a indirizzarlo nella direzione che vuole. Così appunto ad essere ritenuto pieno di assurdità e di idiozie. E a questo punto devo dire purtroppo che la cosa è vera, nel senso proprio perché c'è molta appunto ingenuità e molta credulità da parte di tanti che accettano ogni sorta di teoria assurda che circola in questi ambienti tra virgolette alternativi. Un'altra cosa di cui abbiamo parlato nell'episodio 2 è stato il controllo mentale emotivo, e a questo proposito di solito noi non ci occuperemo di, o perlomeno non lo faremo proprio molto, di occuparci di eventi attuali, di attualità, però ho sentito recentemente qualcosa che mi ha fatto venire in mente proprio il controllo mentale emotivo, perché lo esemplifica molto bene. Ha a che vedere con quello che stanno tentando di fare, una delle tante cose, ne parlavano qui da diverso tempo, ma verrà ulteriormente erosa la libertà d'espressione tramite una legge che stanno facendo passare. Credo che alla fine non è ancora approvata, ma credo che lo sarà presto. E la legge sull'antisemitismo, che criminalizza il cosiddetto antisemitismo, termine già non preciso, non esattamente corretto per quello che intendono, per come lo intendono. Però mi è capitato di sentire uno di questi politicanti, che ovviamente era entusiasta del fatto che metteranno un altro impedimento alla libertà di opinione e di espressione. Chiaramente non l'ha messa in questi termini, ma e sentivo che un ragionamento, tra virgolette, che faceva, che è proprio un esempio, esemplifica bene il come vengono usate le emozioni per manipolare la percezione delle persone. E una cosa che veniva detta era che questa legge sarà importante, sarà utile, perché proteggerebbe anche fisicamente chi è di una determinata religione, in questo caso quella ebraica, e dice, e il discorso che veniva fatto, come spesso fanno i politici, io ho anche, sono stato anche ospite di John Coleman in un programma negli Stati Uniti, che ha intitolato Think of the Children, cioè pensate ai bambini, e infatti lì abbiamo parlato proprio di tattica di manipolazione politica, perché una delle cose che vengono spesso utilizzate per il controllo mentale emotivo è quella di mettere nel mezzo i bambini, tra le altre cose. E questa era la stessa cosa qui, c'era questo politico che diceva perché quando abbiamo visto, insomma, vedere i bambini di religione ebraica venire, dover essere scortati per andare e per tornare da scuola, eccetera, eccetera, e allora sembrava che questa legge, appunto, il messaggio era che ci vuole, è necessaria per la protezione di chi è di religione ebraica. E quindi si vede benissimo il controllo mentale basato sulle emozioni, perché spesso infatti non ha una sua logica. Questa è una legge che poi bloccherà e limiterà ulteriormente la libertà di opinione, quindi è una legge contro delle opinioni. E sembra che, se dai retta a loro, se dai ascolto a loro, sembra che questo possa fermare invece delle azioni. Cosa che, se qualcuno è dotato di logica e raziocinio e usa la ragione, anche un minimo, sa che le cose non tornano. Quindi, sì, ho pensato che questo fosse un esempio di alcune delle cose di cui avevamo cominciato a parlare la volta scorsa, due episodi fa. Sì, hai fatto bene a fare questo esempio, anche secondo me esemplifica molto bene il concetto di come usano il controllo emotivo contro di noi. No, non credo serva fare questa precisazione, ma la faccio comunque. Leggi contro le azioni violente contro un gruppo specifico di persone o qualsiasi persona esistono già. Sì, quella è un'altra, sì, è un'altra cosa. Esatto, quello è un altro modo con cui un'altra forma di manipolazione. Non so tanto se puramente emotiva in questo caso, però, come dire, anche, non so se dire anche verbale. A volte, per esempio, quando mettono una serie di nuove leggi, sì, che però in realtà esistevano già. Però esatto, si fa per far vedere che facciamo qualcosa, che ci teniamo, che vogliamo proteggere le donne, i bambini, gli anziani, eccetera, eccetera. E magari sono già tutte norme che esistevano prima, solo che adesso sembra che ne mettano di nuove, così almeno la gente dice, ah, pensano proprio, stanno facendo qualcosa. E anche questa è un'altra tattica manipolativa che usano. E hai fatto bene a menzionarla. No, volevo solo ripetere, sì, che appunto questa legge, come hai detto bene, limita ancora di più la libertà di espressione. Sì, sarà solo un'ulteriore erosione, saranno solo forniti tutta una serie di pretesti, come stanno facendo, per erodere ulteriormente un'altra delle libertà che stanno venendo ristrette o tolte. Esatto. Volevo anche fare un'altra precisazione su un'altra cosa che abbiamo discusso sempre in quell'episodio. Quando parlavamo degli eventi ciclici, dei cicli temporali, per meglio dire. E volevo dire che gli eventi ciclici esistono in natura, però è per quanto riguarda gli avvenimenti umani che la cosa è diversa, perché negli avvenimenti umani entra in gioco il libero arbitrio e la volontà umana, e la forza di volontà. Per quanto riguarda gli avvenimenti umani, è una questione di volontà, e tutto può essere cambiato riguardo a essi. Cioè, non è detto che le cose debbano andare in un certo modo, e qui una delle obiezioni che a volte si sentono è che, sì, come in natura c'è il ciclo di nascita, vita, morte, che si vede per quanto riguarda alcuni fenomeni in natura, e la stessa cosa è uguale per tipo per le civiltà che poi nascono, prosperano, poi si degradano e poi sì, o crollano o comunque vanno verso una fine. Sì, ma bisogna fare attenzione perché, come sempre, questo è dovuto a una serie di azioni che degli esseri umani hanno compiuto, e questo ha portato poi a delle conseguenze. Quindi c'è sempre un'azione dettata dalla volontà di alcuni, dai comportamenti e dalla volontà, sì, di alcuni, poi che si riflettono poi nel che dettano poi un comportamento nell'insieme, che poi provoca, ha come effetto determinate, cioè provoca determinati effetti. Quindi bisogna sempre fare attenzione quando si parla di, bisogna fare sempre la differenza tra gli avvenimenti umani e gli eventi naturali. Quindi questo è importante da, sempre importante da tenere a mente e da precisare. Perché, come dicevamo l'altra volta, non siamo intrappolati in dei cicli temporali ineluttabili che hanno un destino predeterminato. Questo è importante da capire, altrimenti si incorre in varie fallacie, tipo quella di, appunto, dei cicli del Kali Yuga, che non può essere altrimenti, eccetera, eccetera, che non è vero. Sì, o che siamo in una gabbia da cui non possiamo scappare, tutte queste credenze. Che è inutile fare qualsiasi cosa anche per cercare di almeno di migliorare la nostra condizione, perché tanto è predeterminato, cioè la conclusione o l'esito è predeterminato. Sì. Può darsi che sia molto prevedibile, come purtroppo sì. Sembra che sia, però non vuol dire che non c'è la possibilità, almeno potenziale, di cambiare le cose, perché tutto può essere cambiato in teoria, potenzialmente, riguardo agli avvenimenti, alle questioni umane. Sì, e poi sono sicura che ci torneremo sul concetto di libero arbitrio e... Sì, sì, sì. Approfondiremo di più questa questione. Assolutamente sì. Avanti, sì. Penso che questa sia stata una precisazione importante da fare, anche se sì, torneremo più avanti sul concetto di libero arbitrio e... Sì, sul determinismo e sul libero arbitrio. E sicuramente ne riparleremo, perché sono due, come detto, due concetti molto importanti da capire. Oggi entreremo nel merito della scoperta della verità e dei metodi che si possono utilizzare per, appunto, per scoprirla o per arrivarci il più vicini possibile. Però prima bisogna fare un passo indietro, perché abbiamo parlato di scoprire la verità, solo che qui vedremo, bisognerà dire cos'è questa verità, perché anche abbiamo davanti alcune molte inesattezze o molta mistificazione al riguardo. Molti pensano anche che c'è anche l'idea che la verità non esista nemmeno, oppure che sia un concetto che per noi umani comuni mortali sia impossibile anche da concepire, da capire. C'è l'idea che solo se uno è una divinità può sapere la verità. La verità stessa è molto, il concetto è molto mistificato, non c'è una, spesso non si trova una definizione chiara di che cosa sia. E questo poi porta a una gran confusione sull'argomento, che ha anche delle conseguenze, poi dopo ne parleremo, anche delle conseguenze molto, che possono arrivare anche a essere molto nefaste. La definizione di verità in realtà è semplice, potrà stupire molte persone. La verità è ciò che è e ciò che è stato. È tutto qua. Anche semplicemente dalla definizione si vede che la verità è oggettiva e che esiste. Sempre qui con noi ed è sempre stata qui, che ripeto è semplicemente ciò che è e ciò che è stato. Quindi vediamo che la definizione in sé di verità è semplice, però non voglio dire che è facile da conoscere. Ovviamente ci sono diversi livelli di verità, eccetera, ma per molte cose ci vuole fatica e lavoro per riuscire a conoscere la verità sotto molti aspetti. In quanto umani magari possiamo solo aspirare a conoscere, a sapere certe verità, E magari la nostra, dobbiamo aspirare a conoscere la verità e ad allinearsi ad essa. Però sì, il principio da tenere in mente è che esiste e che si può conoscere. Esatto. E sì, come stavi dicendo, non è la verità, è, perché spesso si sente dire che la verità è semplice, presa come affermazione sì, a sé stante. Sì. E quindi si pensa che qualsiasi verità si possa scoprire o di cui possiamo venire a conoscenza sia sempre semplice magari da trovare, da scoprire o da sì. capire. Ma la verità è... Io tengo sempre a precisare che la verità è semplice come definizione, come esatto. hai detto, ma può essere in molti casi complessa e impegnativa e molto spesso è anche sottile. Esatto. E quindi, come stavi sì, giustamente dicendo, richiede poi la scoperta di molte verità o comunque l'avvicinarsi il più possibile a scoprire la verità su qualcosa. Può anche essere molto difficile e richiedere, sì, molto impegno. E quindi esatto. molte verità, alcune verità sono semplici, ma altrettante anche di quelle, insomma, importanti possono non esserlo affatto. Quindi anche questa è una cosa da precisare, da tenere in considerazione. Quindi sì, la semplicità della verità è nella sua definizione, e questo è già qualcosa, perché se lo dici a qualcuno, penso, come hai detto, può stupire, gli possono può dire, ma non può essere così, non può essere esatto. così semplice. La verità spesso viene associata tipo al pensiero di Dio, sì. o appunto solo per riuscire a conoscerla bisogna essere sì, degli dèi o dei semidei, oppure solo Dio la può sapere. Effettivamente, da una parte, come dicevamo anche all'inizio, quando abbiamo iniziato il podcast, sì, non si può conoscere tutto di tutto, non si può avere la conoscenza universale, globale, che quella sì sarebbe equiparata sì, alla mente di Dio, quella sì, però la verità si può conoscere su molte cose, anche di quelle fondamentali di cui parleremo qui e che sono e saranno essenziali per uscire dalla nostra condizione, per capire come vivere in un mondo libero o comunque molto migliore di quello in cui ci troviamo adesso. Ecco, quello si può scoprire e la verità su queste dinamiche può essere scoperta. Non siamo in questo mondo per rimanere all'oscuro di queste importanti verità, ma siamo proprio qui molto probabilmente proprio con lo scopo di scoprirle e di allineare i nostri comportamenti e le nostre azioni con esse. E un'altra cosa è anche che la verità esiste anche se non la conosciamo, quindi esiste sempre, perché a volte ho anche sentito dire, per esempio, che sì, nel futuro non esiste. Non è che la verità non esiste nel futuro, è che il futuro è ancora, sì, in divenire, sì. Diciamo, deve ancora accadere, anche se prevedibile, ma non è... scritto, però la verità, questo non toglie che la verità esista sempre e comunque. E appunto, anche se noi non la conosciamo, non so se hai mai sentito il discorso non so se è direttamente correlato a questo, però credo che si possa correlare, no? Il famoso discorso dell'albero, che se casca un albero nella foresta nessuno lo sa. Ah, sì, se fa, sì. Allora vuol dire, allora è vero che è successo o non è vero? E la risposta è sì, è vero, anche se nessuno sa che è successo, però resta comunque vero. Quindi anche se noi non la conosciamo, una determinata verità, oppure ancora, cioè se non la conosciamo o ancora non la conosciamo, la verità è sempre quella ed esiste sempre. Un errore che molti fanno, secondo me, è che confondono la verità con la percezione. La percezione, la nostra percezione è appunto soggettiva, può essere diversa da anche quando viviamo un certo evento, io posso viverlo in un modo diverso da te o da un altro, eccetera. Ma quello non è. E sento spesso dire la frase: è la mia verità, è il modo in cui io l'ho vissuto ed è la mia verità. E quello è un, questa è una grossa fallacia, perché non è la mia verità, è la mia percezione, è la tua percezione, eccetera, che non è la percezione individuale, conta fino a un certo punto. Bisogna, ha un suo perché, ha un suo posto, però non è... non è la verità. Non è la verità. Beh, non è importante perché è importante, la percezione, è, la nostra percezione è quella che poi, tra l'altro, ci può anche, man mano che ci allineiamo alla verità, è proprio quella, sì, esatto, che ci aiuta anche, ci può aiutare anche a, appunto, ad allinearci con la verità. Esatto, però sì, non va confusa, giusto, come stavi dicendo, con la verità, perché chiaramente, esatto, la nostra percezione può essere completamente sì, sviata o sbagliata, ma potremmo non averci capito nulla. E sì, sì, sì, esatto. È un po' come l'intuizione, no? Se vuoi. Se... Sì, sì. Spesso, parlando di credenze, di varie credenze alternative o New Age, una che uno può fidarsi solo della... Senti molti dire in questi ambienti che si fidano solo della propria intuizione, è l'unica cosa con cui possono trovare la verità. In realtà non è così, perché come abbiamo detto in precedenza, sono strumenti questi che si possono affinare, esatto, tramite la conoscenza. Cioè più conoscenze esatte o giuste abbiamo, e più saremo in grado di allineare la nostra percezione, o di usare bene la nostra intuizione per arrivare il più vicini possibile alla verità, a capire una determinata verità. Sì, però esatto, non determinano ciò che è vero, ciò che è. Questo è uno dei punti fondamentali che bisogna riconoscere, secondo me, distinguere la verità dalla percezione. Sì, è una delle basi. Sì. Si può immaginare la verità come una linea retta? Sì. E la nostra percezione, diciamo, come una linea ondulata, che a seconda di quanto siamo allineati con la verità, interseca la linea retta della verità. Quindi se la nostra percezione è molto fuori bersaglio, intersecherà la linea della verità un basso numero di volte, ma il numero di volte che la interseca aumenterà man mano che noi siamo in armonia o in allineamento o vicini a comprendere la verità. Esatto. E avevo recentemente sentito in una presentazione che un amico, Nate Kapp, ha fatto in una conferenza che c'è stata da poco, dove parlava di simbolismo geometrico in questo caso, e questo sarà, lo vedremo anche, come anche la geometria sia uno dei metodi di cui parleremo, che sono compresi nel quadrivio, di cui parleremo penso a breve. Parlava e appunto stava parlando del cono, il simbolismo del cono, che è diciamo una proiezione solida che parte dal cerchio con il punto nel mezzo. Anche quello è simbolicamente molto importante. Per esempio il punto nel cerchio è il simbolo da cui deriva anche il famoso occhio onniveggente, di cui di solito se ne parla in maniera, cioè se ne parla come simbolo nefasto solitamente, specialmente in certi ambienti, ma ecco quel simbolo, il simbolo dell'occhio onniveggente deriva proprio dal punto nel cerchio. E il punto poi elevato, se lo eleviamo, otteniamo la figura del cono, che sì, è simbolicamente importante, rappresenta tra le altre cose, rappresenta, ora ne darò una spiegazione di base, giusto per quello che concerne l'argomento di cui parliamo oggi, è una rappresentazione della nostra elevazione, quindi di elevarci e di raggiungere, raggiungere, diciamo, è il nostro percorso per arrivare sempre più vicini all'apice, al vertice. E qui è importante, entra in gioco anche un altro simbolo importante, che è quello della spirale, che può rappresentare anche il nostro percorso di comprensione e di allineamento alla conoscenza e alla verità. Quindi se noi immaginiamo un cono che ha come base ovviamente un cerchio con un punto al centro, se immaginiamo una linea retta dal punto nel cerchio fino al vertice del cono, Ecco, potremmo considerare anche quella la verità e il nostro percorso verso di essa, che non è diretto, ma ci arriviamo tramite il nostro impegno e la nostra acquisizione di conoscenza, la nostra sete di conoscenza, e ci arriviamo con un percorso a spirale che parte dal punto nel cerchio e man mano arriva sempre più verso il vertice. Questo è un simbolismo che si trova anche, per esempio, quando vediamo le scale a chiocciola, lo troviamo nelle raffigurazioni massoniche, per esempio. C'è un simbolismo usato nelle raffigurazioni massoniche, tra le altre cose. E sì, ci sarebbe molto da dire, poi il simbolismo è un argomento molto vasto, però comunque era importante da sottolineare riguardo il nostro cammino verso l'acquisizione di verità e l'allineamento delle nostre percezioni con la verità, o il più possibile vicino alla verità. Un bel esempio, una bella metafora, la spirale intorno al cono, e mi ricorda anche il simbolo della montagna e del percorso, il nostro percorso che ci porta in cima. Vedo, non so, finché parlavi del cono e della spirale intorno, sono anche ricordata di tutto il simbolismo che concerne la montagna. Esatto, ecco, visto che ci siamo, mi ricordo che abbiamo anche parlato del fatto che molti piantano, per così dire, la tenda e non arrivano fino in vetta. Sì. Dove invece bisognerebbe cercare di arrivare, ma poi non è la fine, perché dopo l'arrivo alla vetta c'è anche la discesa. Bisogna tornare verso il basso. Giusto, sì. Quindi è quella sarà l'ulteriore sfida, sì, che troveremo. L'ulteriore sfida da affrontare, non solo la salita, ma poi ci sarà anche la discesa. Non si sa in realtà quale sia più insidiosa tra le due. Vero, sì. Che credo abbia a che vedere anche con, visto che abbiamo anche menzionato i tarocchi, le carte dei tarocchi, con l'eremita. Che l'eremita è raffigurato come il saggio in cima alla montagna con la lanterna che guarda giù, e la lanterna è il simbolo, illumina la strada per quelli che stanno ancora scalando la montagna, ed è anche un simbolo del punto del saggio che va ad aiutare le persone che stanno ancora facendo quel percorso. Giusto, però potrebbe essere anche un avvertimento che non abbiamo tutto il tempo che vogliamo a disposizione per raggiungere una determinata conoscenza e poi per comunicarla e per compiere l'opera di diffusione della conoscenza. Perché appunto con l'eremita si vede che è anche incanutito. È arrivato. Sì, sì, è un vecchio saggio. Probabilmente. Sì. E dobbiamo ricordare. Sì, non è un giovane. È comprensibile, come... però dobbiamo. È anche un monito per farci comprendere che non c'è tutto il tempo. Insomma, dovremo dedicare. Giusto. E sacrificare anche una buona parte del nostro tempo se vogliamo compiere quest'opera di diffusione di conoscenze. Sì, sì, sì, giusto. Siamo già entrati abbastanza nel vivo con questa discussione, però sì, ci vuole. Un'altra cosa da dire è che ovviamente la verità non è detto che corrisponda neanche alle nostre credenze. Anzi, la verità è una cosa, è un concetto separato dalla credenza. Una cosa è una credenza, è qualcosa che crediamo, noi crediamo essere vera, senza averla confermata o senza poterla confermare, e un'altra cosa è ciò che è, cioè la verità. Quindi anche questo è importante da dire, non solo la percezione non è la verità, ma anche le nostre credenze non sono la verità, perché qualcosa che crediamo, ovviamente, se io credo qualcosa, posso solo immaginare che sia vero, magari, però non ho ancora la certezza o non ho le prove che lo sia. È giusto. E con questo non vogliamo dissuadere nessuno dall'avere delle credenze, però è importante riconoscere che sono appunto delle credenze che magari non rispecchiano. Oppure sì, riconoscere che ancora la verità non la sappiamo, però crediamo qualcosa. Sì. Però la cosa importante, sì, è comprendere, avere ben chiaro che poi le credenze, che non cambiano neanche la, non cambieranno neanche ciò che è vero, anche se crediamo qualcosa, poi questo non cambierà no. ciò che è vero. Si può fare l'esempio della gravità e di quello che non crede nella... Come si sente dire, anche questa è un'altra delle tante cose che si sentono dire, che ma la gravità sì. veramente in realtà sì. non esiste, sì, però va bene, non ci credi, però fai un... Fai un salto nel precipizio, nel dirupo, dal tetto, sì, giù dalla e vedrai il risultato sarà sempre uno, cioè che non andrà molto bene per te. Quindi le nostre credenze non cambiano poi ciò che è vero. Quindi anche questa è una cosa importante, molto importante da capire. E non è scontato, non è scontata. E poi c'è un'altra idea da confutare, anche questa, che la verità in qualche modo abbia facoltà, non si sa bene come, abbia facoltà di, diciamo, di difendersi da sola. Anche questo si sente dire, che tanto poi alla fine la verità viene fuori, sì. eccetera, eccetera, è come tanto poi il bene vince. È lo stesso discorso di cui abbiamo esatto. parlato in precedenza, sì. e devo dire che la verità, abbiamo detto, sì, è oggettiva, esiste... Esisterà sempre, anche se cioè, la verità non può essere in realtà distrutta in sé per sé. Si può fare in modo, ovviamente, si può nasconderla agli esseri umani, si può fare in modo che gli esseri umani non la conoscano. E sì, si può tenere celata, occultata, nascosta, e la si può attaccare, come infatti succede, la verità costantemente sotto attacco, e non si difende da sola. Sì, esisterà sempre, però perché degli esseri umani la comprendano, è necessario che venga difesa, che venga propagata e sostenuta con delle azioni, appunto. Cioè parlandone, tentando di diffonderla, di farla comprendere, eccetera. È giusto. È anche questo un po' quello che stiamo provando a fare anche noi. Stiamo provando a occultare la verità. Sì, a farla venire alla luce sì. e a tentare di salvaguardarla per quello che sì. potremmo mai riuscire a fare. Però è necessario, appunto, perché non è che poi viene fuori o salta fuori da sola. Così come, come dicevo prima, così come non è che i buoni, tra virgolette, poi sono quelli che vincono sempre. Vincono sempre. Come succede nei film, nei racconti a lieto fine. La realtà, la verità è un po' diversa. Necessita di esseri in grado di comprenderla, che la difendano e la sostengano, altrimenti anche qui si incorre il rischio di avere una visione del mondo inopportunamente ottimistica. Sì, e ci ricolleghiamo con l'ingenuità di cui parlavamo all'inizio. Sì, esatto, poi si arriva anche alla passività. Questo è un atteggiamento che, come quello sì. della credenza dell'essere presi, dell'essere, diciamo, spettatori non partecipanti nei cicli temporali, qui è la stessa cosa, porta alla passività e all'accettazione di ciò a cui veniamo sottoposti e della nostra condizione. Sì, sì. Anche vorrei aggiungere, hai detto dei buoni che vincono sempre nei film, però se guardiamo bene in molti film e in molte storie a lieto fine, non è che i buoni vincono così. Tante volte vincono perché commettono, seguono delle azioni, fanno delle cose, si difendono giusto. E vincono anche in tante favole, storie. Sì, c'è sempre l'elemento magico, eccetera, però sono delle azioni che dopo, quando, non so, tengono a scomparire nella mente sì, delle poi, persone. Sì, poi, certo. Dopo, quando sì. Perché i film, sì, li viviamo da spettatori passivi. Spettatori. E quindi non sì. quindi è anche quello un trucco, diciamo, che viene utilizzato. Sì. Viviamo tutti questi concetti che vengono magari anche espressi, viviamo così passivamente per procura, e poi non associamo anche quelli che potrebbero essere utili, non li associamo poi alla realtà di tutti i giorni e al comprendere ciò che sarà necessario per poter cambiare la nostra condizione, che può essere cambiata, questo lo diciamo, sarà fatto? Sì. Qui cominciano ad esserci dei dubbi in proposito, almeno a giudicare da come stanno andando le cose e dalla mentalità della popolazione generale, però può essere, sarebbe possibile, si può cambiare, le cose possono essere cambiate con la nostra volontà, con un atto di volontà, così come la verità si può conoscere o se ne può rimanere ignoranti, e anche l'ignoranza, come abbiamo detto la volta scorsa, anche quella è un puro atto di volontà. Nella maggior parte dei casi, al giorno d'oggi, il rifiuto della verità è un atto di volontà. Questo si ricollega anche un po' a quello che dicevamo, cioè uno delle cose che possono succedere quando le persone rifiutano la verità, o come dicevamo prima, la confondono con la percezione o anche con le emozioni. Questo può portare a atteggiamenti negativi, come per esempio, adesso arriveremo anche a degli altri, ma uno adesso che mi è venuto in mente finché facevi questo esempio è l'edonismo. Vivere solo per le cose che portano piacere a me stesso. Edonismo, escapismo. La verità in sé, specie la verità della condizione umana, come abbiamo già visto negli episodi precedenti, non fa star bene. Ok? Quando poi insomma, si viene in contatto con cose che mettono a disagio, che ti fanno sentire male, quindi tante persone non vogliono andare giù per quella strada. E appunto rifiutano, in un certo senso, la verità. Rifiutano anche di guardare, di ricercare, di studiare cosa sia. Non gli interessa, decidono che non gli interessa, che è troppo difficile, che porta troppo disagio, e sono contenti a stare nel... non so, a indulgere in piaceri. Sì, esatto. E nella confortevolezza. Sì, sì. E al giorno d'oggi può anche essere solo, sì, guardare solo, non so, prestare attenzione solo a cose che ti fanno divertire, che ti intrattengono. Il famoso bread and circuses. Sì, panem et circenses. Sì. Esattamente, ma... tecnica ormai vecchia, sì. Quanto il mondo, esatto, o quanto il sistema di potere schiavistico, dovrei dire, sì. Più precisamente, esatto, e che funziona tuttora. E questo ci porta alla prossima cosa di cui volevo parlare, che sono i vari atteggiamenti e le varie idee che negano l'esistenza della verità, quindi le varie negazioni. Visto che si è parlato e si parla tuttora per varie cose del famoso negazionismo, ecco, ce n'è uno in particolare molto deleterio, che è quello dell'esistenza della verità, cioè la negazione che la verità esista. Cosa che poi porta a molti tipi di relativismo, sì. Il più infausto dei quali è il relativismo morale, di cui ci occuperemo anche di questo in seguito, avremo occasione di riparlarne diverse volte, penso, che è uno dei problemi principali nella storia di questo mondo, fino poi veramente ad oggi, dove è diffusissimo. Interi sistemi, poi, l'intero sistema su cui viviamo si basa sul relativismo morale, è completamente relativista, proprio perché è così, diciamo, per sua natura, intrinsecamente pensato per essere, per adottare il relativismo morale, e lo adotta anche la maggior parte della popolazione mondiale, direi. Sì, purtroppo sì. Una condizione che ha a che vedere con questo è anche il solipsismo, la negazione del fatto che tutto quello che è intorno a noi sia reale, di fatto, e sia solo un prodotto della nostra immaginazione o percezione. Che quindi anche tutti gli altri, tutte le cose, tra cui anche gli altri esseri umani, siano solo un prodotto della nostra mente, e praticamente noi siamo gli unici esseri reali, per così dire, nell'intero universo. Tutto l'universo ruota, diciamo, intorno a... è frutto della nostra mente, è un nostro costrutto mentale, e quindi da qui si vede come... cioè, si capisce che questa è un'idea... una condizione mentale molto pericolosa, e tutto scaturisce appunto dalla negazione della verità oggettiva, dalla negazione che questa esiste. E voglio dire, anche forse l'eccessiva elucubrazione filosofica, anche senza avere delle solide fondamenta, può portare a questo tipo di idee o tipo di pensiero, che poi diventa, secondo me, diventa una vera e propria malattia mentale. Cioè, si va nella turba psichica e nella psicopatologia, con cose come il solipsismo, ma anche la negazione della verità. Entriamo nell'ambito, per me, proprio della psicopatologia. Sì, sì, perché alla fine il solipsismo, che ho scoperto viene tradotto in italiano anche come egocentrismo esasperato. Giustamente. E quindi dà un'idea più chiara di cosa sia. Praticamente dice che non esiste la verità al di fuori di me stesso, solo io esisto. Quindi vediamo se, come hai detto bene, è una malattia mentale, esatto, e che facilita, e anche secondo me nella società moderna molti sono solipsisti e non lo sanno neanche, e quando dici che, quando credi che solo tu esisti, questo facilita un sacco di altri atteggiamenti sbagliati, sì, come hai detto tu, il relativismo morale, primo di tutti, che poi sì, e porta anche a altre come il materialismo, il narcisismo, perché se esisti solo tu non ti interessi, non ti curi di nessun altro. Sì, ed è quindi poi così difficile immaginare come mai siamo in questo stato. Esatto. E come mai non riusciamo apparentemente a migliorare questa condizione. Sì. E come mai tanti danno ascolto e forniscono il seguito necessario, per esempio, perché dei dittatori poi prendano il potere e abbiano un seguito di popolazione che li approva e gli consente poi di perpetrare tutti e gli orrori più terribili che ci sono stati nel corso della storia e che ci sono tuttora. Una volta capite queste psicopatologie e queste ideologie malate e deviate, si capisce poi ancora meglio la nostra condizione. E perché tanti la sostengono alla fine. Sì. Quando nego l'esistenza degli altri, o che gli altri siano importanti, o che la moralità sia relativa, lì apro proprio apro le porte, spalanco le porte agli orrori della storia e agli orrori di cui purtroppo siamo testimoni, come detto, fino ad oggi. Sì, sì, purtroppo sì. E poi la cosa bella è che secondo me anche tutti dicono no, ma come fai a dirlo, come si fa, non vedi, non è possibile che la verità sia oggettiva, tutte queste cose. Tutti gli apologisti di tutte queste idee, a sentire loro sembra tanto complicato confutarle. In realtà poi queste sono tutte idee che si autocontraddicono, da quello che ho visto io, avendo avuto occasione di vederle e rifletterci su per diverso tempo ormai. È piuttosto facile contraddirle, proprio perché appunto sono autocontraddittorie. E quindi cosa risponde a una persona che ti chiede, no, che ti chiede, che dice che la verità non esiste? Io risponderei: allora è quella la verità. Al che qualcuno potrebbe dire: come è quella la verità? Se io dico che la verità non esiste, ho detto una cosa che ritengo essere la verità. Esatto. Dice no, ma allora quella è l'unica verità, che da cui poi parte tutto il presupposto che la verità non esista. Però dammi solo quella verità e poi da lì parte tutto il resto. Sì, di nuovo, quindi la verità c'è, perché quella è quella sarebbe la verità secondo chi sostiene che non esiste. La verità è che la verità non esiste, affermazione che si autocontraddice, perché in qualunque modo tu la metta, si autocontraddice. Si torna sempre al fatto che esiste una verità. Ed è la stessa autocontraddizione del solipsismo, anche se poi torneremo a parlare del relativismo e del solipsismo, ne parleremo ulteriormente, però è un'altra di quelle cose che si autocontraddicono. Dovrebbe essere evidente, purtroppo non lo è, perché appunto tanta gente è mentalmente disturbata da questo punto di vista. Però se io credo, mettiamo che sono io l'unica cosa reale in questo mondo, E te mi potresti dire, no, sono io l'unica cosa reale in questo mondo. E un altro potrebbe dire, no, sono io l'unica cosa reale in questo mondo. Quindi chi è reale e chi è un frammento della propria... Cioè, tutti dovremmo essere reali e tutti dovremmo essere frammenti dell'immaginazione di qualcun altro. Esatto. E ci sono tantissime giusti tentativi tentativi maldestri di giustificazioni, specialmente chi si mette a elucubrare poi sulla faccenda, ma per me è evidente, è evidentissimo che tutto questo è una grande autocontraddizione, come negare la verità, come negare che esista la verità. È diventata è una malattia mentale. Poi chi ha queste idee è in preda a un disturbo mentale. Che purtroppo ha delle conseguenze molto negative nella realtà manifesta. Sì, sì, sì, purtroppo sì, giusto, sì. Però vorrei aggiungere una cosa un po' più positiva forse in tutto questo, che secondo me sì, esistono sicuramente delle persone che hanno queste, che credono fermamente in queste cose e dibattono e litigano che la verità non esiste o che è tutto un'illusione. Sì, simulazione. Dice tutto un'illusione, che è la teoria della simulazione e le altre scemenze, esatto, sì, che circolano, che si dicono, sì. Però, detto questo, secondo me anche sono idee, filosofie che vengono, che magari la maggior parte della gente ce le hanno un po' in testa, però ce le hanno anche perché non ci hanno mai pensato più di 5 secondi su cosa effettivamente vogliono dire. Non so, è un altro invito a chi ci ascolta a riflettere se magari siete stupiti o non siete d'accordo con qualcosa che abbiamo detto in questa puntata o in altre. Magari riflettete un po', pensateci, perché come appunto abbiamo detto, molte di queste credenze, affermazioni si autocontraddicono se ci pensi. Sì, il punto è che pensandoci, sì, riflettendoci... Sì. Si può guarire. Diciamo, sì, sì. Sì, si può guarire. Sì, se non sei una di quelle persone che... Completamente devastati. Esatto. Se non siamo completamente devastati mentalmente, sì, diciamo che la buona notizia è che anche qui in teoria se ne può uscire, sì, con esatto, una solida, sì, con delle solide basi di pensiero, ecco. È possibile. Il che mi porta anche a menzionare qui anche l'epistemologia, vedo, di cui un'altra cosa di cui volevo parlare, perché c'è anche negando la verità con tutto quello che ne consegue, poi si arriva anche a negare che ci sia che ci siano dei metodi per arrivare alla verità, per scoprire la verità. E l'epistemologia è una disciplina che si occupa proprio dei metodi sia scientifici, che fa parte della filosofia della scienza, ma anche per quanto riguarda l'ottenimento della conoscenza in generale. Quindi è il metodo, si occupa del metodo e del fondamento della conoscenza. È come sappiamo quello che sappiamo, come sappiamo se quello che sappiamo è vero, se è valido, e dei vari metodi per appunto arrivare alla verità e per comprendere la verità. E anche questo viene messo in dubbio con la... Ci sono anche poi varie ideologie che hanno messo in dubbio che ci sia la possibilità di giungere alla verità e che ci siano dei metodi comprovati per poterlo fare. Anche qui andiamo un po' un tantino avanti, ma mi viene in mente, per esempio, ci sono tanti di quelli che si chiamano think tank, una sorta di associazioni dedicate alla manipolazione, proprio all'ingegneria sociale, che è la manipolazione della società fondamentalmente, proprio che sono dedicate a diffondere nel pubblico l'idea che la verità non si possa scoprire o che sia un'invenzione. Mi viene in mente la scuola di Francoforte, che diceva che se qualcosa non si confaceva o non si allineava all'ideologia socialista, allora non poteva essere vero. Quindi c'era anche quella forma, se vogliamo chiamarla così, di relativismo epistemologico. Oppure che un'altra cosa che si sente spesso molto pericolosa è che la verità era è un prodotto, è stata diffusa anche questa, che la verità è un prodotto della classe dominante o del tipo del capitalismo della borghesia, è cose di questo genere. Quindi sì, diciamo anche la negazione del fatto che esistano i metodi e le possibilità, esista un metodo scientifico per scoprire e per arrivare alla verità è un'altra idea estremamente deleteria e che da anche questa serve anche questa poi è servita per giustificare ideologicamente l'esistenza e l'operato di tutte queste ideologie e idee che poi sono state e sono anche adesso distruttive per la libertà sì, e per l'umanità. Sì, e tra queste idee possiamo anche fare qui una menzione anche del nichilismo, che è un po' in linea con tutte queste negazioni della verità e questi relativismi di cui stavamo parlando. Che il nichilismo in particolare è l'atteggiamento che appunto nega l'esistenza della verità, quindi anche questo rientra tra tutte queste condizioni della mente, sempre una condizione mentale, che appunto poi è distruttiva e porta a delle conseguenze, anche questa è delle gravi conseguenze. Sì, nega la verità, nega l'esistenza di valori, che ci sia uno scopo nella vita, un significato e appunto una verità assoluta. Questo ha anche a che fare con la paura di cui parlavamo all'inizio, che accennavamo, la paura le paure che abbiamo, e sembra proprio che oggi una delle più grandi paure che abbiamo, come è stato detto, una delle più grandi paure che ha l'umanità è che la verità sia assoluta, e la ritengo un'affermazione vera, veritiera. Sembra proprio a giudicare dal successo che hanno determinati tipi di pensieri erronei che sia proprio questa, che ci sia una verità assoluta. E sembra proprio che la prospettiva ci spaventi. Ma, come abbiamo detto, sono condizioni da cui si può e si deve uscire. E se vogliamo avere anche una minima speranza di risolvere la nostra condizione, dovremo uscire da queste condizioni e smascherarle come false e errate, e che non portano a niente di buono in assoluto. Niente. E dobbiamo capire in realtà che, come abbiamo detto, la verità esiste, la possiamo scoprire, rientra nelle nostre possibilità scoprire la verità anche su cose molto importanti, come, ripeto, come quello che ho detto prima, capire che è anche una cosa molto bella, una delle cose più belle che si possono fare come esseri umani, probabilmente quando ci chiediamo anche lo scopo della nostra esistenza, lo scopo della vita, sicuramente uno di quelli primari è arrivare a comprendere che c'è una verità che si può scoprire e che è anche l'elemento primario per la vera evoluzione umana. Oggi si tende a considerare l'evoluzione come soltanto tecnologica, puramente tecnologica, e si tende anche a fare raffronti, paragoni con le civiltà del passato, specialmente dell'antichità, e anche quelle preistoriche, con quanto siamo tecnologicamente evoluti oggi, invece di considerare l'evoluzione, l'elemento, la vera evoluzione e l'elemento fondamentale perché avvenga la vera evoluzione, dobbiamo considerare che è la verità. E la nostra, diciamo, il nostro sforzo per arrivare a comprenderla e allinearci con ciò che è. Finché parlavi sto pensando, qualcuno potrebbe chiedersi perché dovremmo allinearsi alla verità, cosa, che benefici può sì, portare? Quest'ora è un discorso che approfondiremo, ma già dico che questa è una prospettiva, viene da una prospettiva utilitaristica, puramente utilitaristica, di cui ci occuperemo. Ed occorre sempre sapere ciò che è vero e sempre cercare di impegnarci per quello, perché altrimenti ciò significa che invece ci stiamo adoperando per il falso. E come vedremo anche in seguito poi, e come anche abbiamo detto oggi, il falso, se invece noi seguiamo, ci allineiamo a ideologie o a idee o a concezioni o anche a, in generale a tutte le cose che invece sono false, vedremo che poi come vediamo che poi come conseguenze ne riceviamo solo di negative, che sia a breve, a medio o a lungo termine, ma non è un'esistenza e un'evoluzione. Allora, innanzitutto un'esistenza non basata sulla verità, ma basata nell'accettare ciò che non è vero, non è sostenibile, non sarà sostenibile per la nostra specie. E poi non ci potrà mai essere una vera evoluzione, quindi non solo intesa da un punto di vista tecnologico o pragmatistico o utilitaristico, sarà impossibile senza la comprensione della verità. Giusto. Sì, no, hai detto bene. E un'altra cosa che sarà importante fare, tornando a quello che dicevamo poi di ridiscendere poi la montagna, oltre che scalarla e arrivare in cima dovremo anche ridiscenderla, e questo comporterà anche impegnarsi per un cambio di narrativa, per far cambiare la narrativa intorno a tutti questi argomenti che sono della massima importanza. Non c'è solamente bisogno di farlo per gli eventi attuali o politici o geopolitici, ma c'è bisogno anche di un cambio di narrativa per quanto riguarda quello di cui abbiamo parlato fino adesso e di cui continueremo a parlare, e specialmente per quanto riguarda la verità. Dobbiamo rimettere la verità al posto che le compete e cambiare tutta questa idea del fatto che sia fuori moda, che la verità è fuori moda, come sembra che sia il pensiero odierno, che sia, sì, che la verità sia fuori moda, oppure sia un concetto falso, inventato o obsoleto. E ecco, no, la verità dovrebbe essere il cardine dei nostri pensieri, del nostro, diciamo, sentire e del nostro agire. Quello che cerchiamo anche noi, come detto, nel nostro piccolissimo di fare è di perlomeno contribuire a mettere una voce diversa e un cambio di narrazione per dire che no, appunto, non è un'idea fuori moda, non è un'idea così passeggera che non ha significato, che magari non esista nemmeno. La verità e la libertà non sono ideali romantici irraggiungibili nella vita reale e solamente cose per così, solamente sogni adolescenziali o comunque ingenui, appunto, e non realizzabili. Quindi non è così, e va detto, e bisogna operarsi perlomeno per cercare di affermare appunto questa verità e rimettere la verità al primo posto, rimetterla al primo posto. Quindi quando parliamo di principi primi, vuol dire per prima cosa avere chiari e mettere al primo posto come importanza la verità. Perché poi da lì parte tutto, anche anche il raggiungimento della libertà e la comprensione della libertà. Sì. Che non può, non possiamo, non potremo mai arrivarci, come ridiremo, abbracciando il falso a discapito del vero e abbracciando tutte quelle idee e condizioni psicologiche malate di cui che abbiamo cominciato ad accennare prima. Sì, giusto. Detto benissimo. Hai altro da dire? Vai pure, di pure quello che vuoi. No, no. No, credo che hai chiuso... No, no, è stata una bella conclusione. Grazie. No, hai detto... E vorrei avviarmi a concludere con una citazione. Una citazione di uno scrittore studioso, Albert Churchward, che dice: «Si deve solo pensare e comprendere che la ricerca e l'ottenimento della verità sono di immenso interesse per l'umanità nello studio dell'evoluzione della razza umana, nonché dell'origine, delle credenze e del significato di tutte le dottrine diffuse nel mondo. Coltivando la nostra ragione siamo in grado di distinguere il bene dal male, così come la verità dalla falsità. Entrambe sono questioni della massima importanza, sia in considerazione di questa vita, sia della prossima». Quindi ecco, riassume benissimo quello che abbiamo detto oggi, credo sia una buona, siano delle buone parole su cui riflettere e con cui concludere questo episodio. Non so se Giulia hai qualche ultima considerazione. No, credo che la citazione che hai appena letto, come hai detto tu, riassume benissimo quello di cui abbiamo parlato oggi. No, credo che sia stata una conversazione importante, spero interessante anche per chi ci ascolta. Sì, oggi l'argomento era un tantino importante, come dire. Sì. Sì. No, grazie per avermi invitato. Ci vediamo, insomma, ci sentiamo la prossima volta. Sì, e ci vediamo alla prossima. Per oggi abbiamo finito. Grazie a chi ha ascoltato, grazie a te Giulia, e alla prossima.